Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune brevi informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potrete interloquire con i giornalisti che hanno un blog. Il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. La seconda informazione di servizio riguarda invece la mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it. Bene, devo dire che arrivano moltissime mail, alcune che riguardano casi particolari e personali, quelli, lo sapete, non posso prenderle in considerazione, altri invece che, pur rappresentando situazioni personali, riguardano una platea molto più vasta di persone. Ed è il caso appunto della mail che ci ha mandato un radioascoltatore barese, ma che vive a Parigi in questo periodo, Corrado Vannella, e quindi è solito prendere aerei per i suoi spostamenti, che ci ha fatto presente una serie di difficoltà con la compagnia aerea EasyJet, e mi ha colpito appunto questo fatto che lui ha 3 reclami in corso con la compagnia EasyJet. Lo sapete, è una compagnia che molti hanno preso, anche io mi sono trovato a prendere, una compagnia low cost. Sentiamo a questo punto qual è la disavventura di Corrado Vannella, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Ecco, però non ci sarebbe una trasmissione e una puntata seria se non avessimo le controparti. La controparte è rappresentata da Thomas Meister, che è il marketing manager di EasyJet. Buongiorno Meister. Buongiorno. E abbiamo anche l'avvocato Vittorio Bonaguidi di Telefono Blu. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Allora Vannella, direi proprio di partire dalle sue disavventure con EasyJet, prego. Ovviamente non posso raccontarle tutte perché sono troppe. Cito un episodio tra tutti: il volo del 23 dicembre Milano-Bari annullato causa maltempo. Peccato che in quel momento di maltempo non ce n'era né nell'aeroporto di Milano né a quello di Bari. L'aereo che mi avrebbe dovuto portare a casa era rimasto bloccato, sì, causa maltempo, ma in un altro aeroporto. È un po' come se io, che faccio l'ingegnere, dicessi al cliente: non posso consegnarti il progetto in tempo perché mi è finita la penna e ce l'ho sopra delle cartolerie. Lo posso fare, ma poi devo pagarti una penale, che certo, nel caso delle compagnie aeree è scritta nero su bianco sul regolamento europeo, sotto forma di garanzie che mi sono visto negare. Ho capito, quindi lei ha contattato, diciamo così, anche EasyJet. Ho provato in più modi, tramite raccomandata non ho avuto risposto, tramite amici di amici ho trovato un indirizzo email, come dicevano qui ti rispondono, perché il form che dà a disposizione EasyJet è troppo piccolo per poter scrivere tutto quello che mi è successo. E quindi ho dovuto mandare delle email. Alcune di queste email non mi sono state, per alcune di queste email non ho ancora ricevuto risposta. Ho capito, quindi lei a questo punto giustamente dice due cose: primo è i disagi che ho subito, ma secondo, almeno santo Iddio, rispondete ad un vostro cliente, no? Che roba! Aggiungerei inoltre, dato che le compensazioni pecuniarie sono dovute per legge, mi chiedo come mai debba fare ricorso per riceverle, certo, senza poi averle. Ecco, questa è una giusta contraddizione che lei mette in evidenza, cioè se è previsto dalla normativa europea che io debba ricevere, essere rifuso per il danno che ho subito, perché devo chiedere io che mi siano dati i soldi? Allora, certo, il caso mi sembra abbastanza chiaro e abbastanza curioso, Meister, cioè un volo da Milano a Bari che non parte perché il maltempo non è né a Milano né a Bari, ma in una località terza, cioè in un'altra città, ed evidentemente da quella città l'aereo non è potuto decollare. Però la domanda che sorge spontanea, come dicevo mio illustre predecessore giornalista, ma al cliente cosa interessa che altrove c'è maltempo? Al cliente interessa di partire ed arrivare, non è così, Meister? Chiaramente sì. Allora, innanzitutto mi vorrei scusare in nome della compagnia per quello che è successo al signor Vanella. Ovviamente non è accettabile, non è soprattutto accettabile che non abbia ricevuto una risposta da parte nostra. Adesso la verità è che non so esattamente quello che è accaduto con questo volo particolare sulla Milano-Bari di quel giorno. Dobbiamo per forza guardare un po', potete essere assolutamente sicuri che, cioè, lo prendo veramente per me, e vedremo chiaramente quello che è successo. Sono rimborsi, faremo tutti i rimborsi possibili, e sì, c'è anche una multa, un penale dovuta da parte nostra, poi pagheremo pure questa multa. Certo, allora quindi, se ci sarà una multa o una penale ovviamente non saremo noi a deciderlo, però io direi a questo punto, lei dice giustamente se ci sarà qualcosa da rifondere, se ci sarà un danno da riparare nei confronti di Vanella lo faremo, ma il punto non è Vanella, cioè per un Vanella che ha il coraggio di esprimersi e di presentarsi, quanti altri clienti insoddisfatti che si trovano in questa situazione, e quel che dà fastidio agli italiani, così come alle popolazioni di tutto il mondo, è la mancata risposta. E allora io le chiedo, Meister, esiste una linea diretta, esiste una mail dove il cliente di EasyJet può scrivere anziché rincorrervi e cercare dove siete sui siti piuttosto che ricorrere agli amici degli amici? Dica allora, una parola di conforto e di chiarezza da questo punto di vista. Chiaramente sì, c'è un servizio cliente EasyJet che è molto efficace, anche in lingua italiana, che è raggiungibile tramite mail, l'indirizzo email è presente sul sito internet, sulla pagina su easyjet.com in italiano, eppure adesso c'è anche un numero di telefono, costa pochissimo, non è come tanta gente lo dice, poi diventa molto facile di raggiungere il nostro customer service. Ecco, ma allora diciamolo, anche il numero di telefono. Non ce l'ha con sé. Ce l'ho qua, ho capito. Comunque su EasyJet lo possiamo mettere sul vostro sito internet. Pure. Quindi su easyjet.com si può trovare il vostro numero di telefono. Però Vanella, non mi pare che sia stato così facile il contatto, no? Certo che no, perché alla raccomandata non ho avuto risposta. Quando mi sono trovato in difficoltà in aeroporto, il numero da chiamare era un numero in Inghilterra e mi trovavo in Francia, e al numero non rispondeva nessuno. Ecco, allora... Quindi, e poi aggiungo, ci sono le telefonate, il diritto di fare le telefonate dall'aeroporto, che mi è stato negato tutte e tre le volte. Ecco, questo non è sicuramente un bel segnale, ma questa trasmissione non serve per distruggere, ma serve per costruire e cercare di migliorare nel nostro piccolo le cose. Quindi io prendo, caro Meister, il suo come un impegno a migliorare i rapporti con la clientela. Sì, la mia domanda soltanto al signor Vanella è: quando è successo quello? Lo ha già detto. Perché? In apertura è successo, lo ripeta Vanella. Il 22 dicembre la prima volta, il 23 dicembre okay. La seconda, il 1 marzo la terza. Benissimo, tre disavventure. Allora, abbiamo sentito EasyJet che prende l'impegno, noi saremo qui per raccontarlo ancora. Avvocato Vittorio Bonaguidi di Telefono Blu, a lei un commento. Brevissimamente, nello stile della vostra trasmissione. Qui è un problema ovviamente di primo capitolo, customer satisfaction, customer service, e quindi qui il problema c'è, il problema è evidente, il passeggero non è riuscito a contattare la compagnia aerea ed è un problema serio, grave. Purtroppo mi dispiace dirlo e non vuole essere assolutamente un accanimento, un infierire contro EasyJet che lavora seriamente come le altre compagnie, però ci sono altre situazioni che come Telefono Blu possiamo comunicare di nostri assistiti che hanno proprio con EasyJet avuto un problema similare, mi sto riferendo esclusivamente al capitolo customer service, quindi una grossissima difficoltà a contattare nel momento del disagio, nel momento del disservizio, che dir si voglia, la compagnia aerea. Quindi ecco, questo è il primo capitolo. Certo. Il secondo capitolo è quello conosciuto secondo la carta dei diritti del passeggero, quindi il problema della cancellazione del volo. Noi sappiamo bene, o comunque lo diciamo a chiare lettere, l'articolo 5 prevede che al verificarsi dell'evento della cancellazione del volo ci debba essere sempre un rimborso del biglietto o un'accettazione per un volo alternativo, pasti e bevande e quant'altro di spese per caso di assistenza, appunto permanere in loco presso gli aeroporti, certo, dei passeggeri. E comunque invece non sempre, ad esempio in caso di forza maggiore, non c'è la parte relativa all'indennizzo. Benissimo, allora io la ringrazio Bonaguidi per le sue conclusioni, quindi l'invito a EasyJet di rendere molto più chiare anche le avvertenze per i clienti che vogliono parlare con voi e che vogliono magari anche chiedere il rimborso di spese che non dovevano essere sostenute, magari per viaggi annullati, come nel caso del nostro radioascoltatore Vanella, che ringrazio, così come ringrazio anche Thomas Meister, marketing manager appunto di EasyJet. Grazie in regia Michele Previato e in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.